fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho visto con piacere che ieri vi siete tutti divertiti a sentir parlare delle maestrine alla penna rossa che correggono il linguaggio secondo le auree immutabili e immarcescibili regole della vecchia e buona grammatica. Beh, oggi vogliamo fare un passo avanti. Ammesso che siamo tutti andati a ripetizioni dalle maestrine alle penne rosse, quindi abbiamo un perfetto, fluido, correttissimo linguaggio, come possiamo usarlo? Vorremmo che questa mattina ci raccontaste dalla vostra viva esperienza e dalla vostra carne martoriata, siete mai conosciuto chi è bravo a usare le parole, non so, per vendere, per sedurre, per turlupinare, confondere, illudere, nascondere, chiagnere, fottere, insomma, quelli che usano le parole in maniera strumentale, attiva, come se fosse un'arma impropria a disposizione di chi sa ben usare il linguaggio. Sarete anche voi ormai abituati alla tiritera che ci sentiamo ripetere ogni istante, che siamo nell'epoca della comunicazione, è importante comunicare, tutto va comunicato, comunicare è fondamentale e quindi attorno a questa fondamentale maniera di comunicare si è creata la scienza della comunicazione. Scienza della comunicazione trovo che sia una contraddizione in termini, una profonda aporia, come può essere scientifico qualcosa che va definendosi ogni giorno sulle mutevoli circostanze spazio-temporali, sulle percezioni, sulle tecnologie, sui cambi d'umore, sui cambi di flussi migratori. Comunicare è difficile fissarlo in regole auree scientifiche perché la comunicazione non è una scienza, è un riadattare continuamente a circostanze mutevoli la capacità affascinatoria, la capacità seduttiva. La parola è un grande strumento di seduzione, è simile a un filtro magico. Ci sono grandi affabulatori che riescono a parlare e portarsi dietro tutti. Ancora non ci si spiega come sia possibile che esistano, non so, venditori di fumo, venditori prodotti senza nessun valore concreto e materiale, venditori di numeri del lotto, venditori di sale benedetto, venditori di illusioni, persone che stanno ad ascoltare altre persone e si fanno pagare per starle a ascoltare, persone che danno consigli di vita, maestri di vita, transumanazione di chissà quale entità nascosta. Insomma, ancora devo dire, chi sa usare le parole ha un bel mestiere in tasca. Beh, 800 24 00 24. Quanto siete stati vittima di chi sa ben usare il linguaggio e quanto voi sareste in grado di insegnare a qualcuno come attraverso il linguaggio si può diventare potenti. C'è una cosa che vendiamo tutti i giorni. Siamo noi stessi agli altri. Tu quando proponi una tua idea alla tua responsabile, stai vendendo la tua idea. Quando proponi la tua idea a un direttore generale, stai vendendo la tua idea. Noi vendiamo sempre le nostre idee, il nostro modo di essere, il nostro modo di presentarci. Sempre. Oddio, stiamo un po' pagando lo scotto del fatto che le idee abbiano un mercato, che le idee abbiano un prezzo, che sia così facile vendere idee, che ci sia sempre qualcuno disposto con i dobloni in mano a darci soldi per le nostre idee. Si è visto che le idee hanno un valore quando riescono a camminare con le loro gambe, quando riescono ad avere un mercato, quando riescono comunque a produrre profitto. Ma siamo stati, ahimè, illusi tutti da una generazione di creativi, di venditori di idee, di persone con lo sguardo assorto, nero vestite, pallidamente assenti, che erano coloro che avevano le idee. Poi abbiamo visto che nella pubblicità, nella creatività generale, nell'industria cinematografica, nella fiction, nel mercato della televisione, poi queste idee non erano altro che continui ruminamenti di uno stesso principio, magari venuto chissà da dove. Ma questo signore che abbiamo sentito, l'abbiamo preso per caso, casualmente, su YouTube, è un insegnante di sistemi efficaci per usare il linguaggio per vendere idee, per affermarsi, per vendere prodotti, per essere potenti. 800 24 00 24, quanto voi ne avete sentito parlare nella vita di queste tecniche? Mi scrive Massimiliano su Facebook, dice: assolutamente sì, ne ho sentito parlare, pensa, c'è un momento, c'è un movimento che si occupa di questo, si chiama programmazione neurolinguistica, che studia come il tuo interlocutore comunica per poterti presentare un'idea, una proposta di vendita, una proposta sentimentale, in maniera irresistibile. Studiano tutto a livello minuzioso, come movimento degli occhi mentre si pensa, l'uso particolari verbi, movimenti delle mani e così via. Quindi studiare attentamente ogni segno esteriore del nostro interlocutore per trovare le parole giuste che, come Grimaldelli, riescono a scardinare ogni sua resistenza. C'è una cosa molto importante: generalmente le persone ascoltano poco. E quando una persona trova una persona che ascolta, automaticamente gli piace tanto questa persona. Voi provate ad essere veramente interessati rispetto a quello che una persona sta dicendo e voi ripetete le ultime tre parole che le dice. Tutta la sera parla e dirà alla fine: cazzo, che figata stare con te. Se ripetete le ultime tre parole, però lo dovete fare veramente perché ci credete, no? Nel senso... Lo sai che ieri sono andato a comprare un vestito? Un vestito? Sì. Sì, un vestito, perché devo andare ad un matrimonio. Un matrimonio? Sì, perché si sposa il cugino di mia sorella che ha questa cosa. Ah, il cugino di tua sorella? Sì, perché ho 3-4 fratelli, così via. Non so quanto ci sia di scientifico in questo corso di affabulazione o di capacità di seduzione attraverso le parole. Immagino sia un corso per venditori, quindi sta spiegando alcune tecniche per riuscire a piegare lentamente la volontà dell'interlocutore. È un'operazione di chiara seduzione, è come il grande seduttore di fronte alla sua vittima tenta di conquistare dei piccoli momenti di intimità fisica, di intimità interiore, tenta di scardinare uno dopo l'altro i lucchetti che sigillano gli aspetti più profondi dell'intimità di questa persona. Il grande seduttore guarda negli occhi, sfiora la mano, intanto già avuto un contatto fisico, prende la mano in mano e ha un contatto più stretto e cerca già una risposta. Sale con la mano lungo il polso, accarezza il gomito, sale lungo l'avambraccio e via dicendo. E quando arriva ai punti più sensibili sa già che è comunque come se avesse aperto la chiave della plancia di comando della emotività di quella persona. La stessa cosa suggerisce di fare questo signore, di cui non rispondo assolutamente della scientificità e attendibilità, lo mando come esempio della facilità con cui oggi viene trattata come argomento comprensibile a tutti, quindi con divisibile da tutti, la possibilità che il linguaggio possa essere un'arma molto potente. Domande aperte e domande chiuse. Attenzione che facciate dire di sì ai vostri clienti. Fate domande chiuse solamente quando il cliente dice sì. Cioè, se ho capito bene, lei ha un'azienda che produce scarpe? Sì, cioè può dire solo sì se produce scarpe. Se ho capito bene, lei vuole riorganizzare il suo processo produttivo? Sì. Se voi imparate a far dire sì al cliente, automaticamente la prossima cosa che dirà sarà sì. Volete provare? Allora, vi chiedo di rispondere molto velocemente, tutti quanti molto velocemente. Siete pronti? Allora, di che colore è la neve? Bianca. Che cosa beve la mucca? Latte. Questo è un giochettino che facevamo a scuola elementare, ma evidentemente ha in sé una radice profonda che porta a creare confusione nel nostro interlocutore e prova a far abbassare alcune delle sue difese, o perlomeno lo fa sentire in inferiorità per il fatto che risponda così stupidamente, per assonanza, per il fatto che parlare di mucca, parlare di colore bianco, subito viene in mente il latte. Già mi stanno arrivando vari messaggi rispetto a questa capacità di usare le parole, ma quello che mi piacerebbe sapere è chiamando all'800 24 00 24 che mi diciate quanto siete state vittime di questa affabulazione. Potete essere lo stato nel mondo del lavoro, nel mondo degli affari, del profitto, ma anche nel mondo dei rapporti personali. Come ad esempio Ada, provincia di Torino. Ada, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Io sono Ada, ascolto moltissimo la vostra trasmissione, la sua trasmissione in special modo. La mia trasmissione? Sì, la mia trasmissione? La sua trasmissione, perché mi interessa molto e le faccio molti commenti. Le interessa molto? Sì, molto. Ha sempre degli argomenti di attualità che sono importanti anche per l'educazione delle persone. Ah, per l'educazione, trova? Sì, sì. No, sto facendo quello che sto facendo quello che suggeriva quel signore. Si sente sedotta dal fatto che ripeta la sua ultima parola? No, non mi sento sedotta perché ragiono con la mia testa. Eh no, volevo provare la tecnica per capire, poi vedere le tecniche hanno sempre dei punti. Questo signore poco prima ha detto bisogna sempre ripetere l'ultima parola del proprio interlocutore e farsi dire sempre di sì. Lei mi dimostra che io non è sempre così. Che sia uno sbaglio e non sia neanche onesto. Perché ma chi vuole sedurre non deve essere onesto. Scusi Ada, se io voglio sedurre non posso essere onesto. Devo sedurre quando ritengo che quello che insegno poi servirà per un bene, per un qualcosa che serve. Non un bene mio però, scusi, io seduco per avere i suoi soldi, la sua disponibilità amorosa, la sua casa, il suo consenso politico, per questo seduco, per avere dei vantaggi per me, mica per lei. Ma i vantaggi devono essere di tutti, non Eh no, se no non c'è, dov'è l'affare, dov'è il guadagno, scusi? Il mio profitto di seduttore è avere tutto il vantaggio per me e niente per lei. E se no sarei un benefattore. È sbagliato. Cioè, è cattivo. È cattivo. È infame. Ma insomma. È una cosa da fare. Ma il seduttore è infame. Bisogna insegnare a non fare. Chiaro, perché questo è chiaro, certo. Ci sono sempre delle persone ingenue che cadono nella trappola e questo è sbagliatissimo. Ma sì, però io volevo far capire, signor Ada, volevo far capire che in realtà noi non stiamo parlando di una tecnica di salvezza dell'umanità. Stiamo parlando la parola usata in maniera infame. Questo per essere chiari. Scuola di infamità stiamo spiegando, ecco. Allora, lei cosa voleva dire a proposito? Io volevo dire che questi corsi sono utili a delle persone che effettivamente sono timide, sono persone che non riescono a farsi capire nella vita, però sono tecniche sbagliate per le persone che poi usano queste tecniche per i loro profitti, che non sono sempre validi e puri, capisce? E beh, per forza. Ma noi siamo cattivi, lo sa. Sì, lo so, però bisogna insegnare la bontà, non insegnare la cattiveria. La cattiveria ce la insegna già la vita tutti i giorni. Ma questa è la parte della vita che ci insegna la cattiveria, capisce? Cioè, non è che li voglio assolvere, dico, stiamo spiegando che la parola può essere usata in maniera meravigliosa per accompagnare piacevolmente delle persone a cui vogliamo bene, per insegnare la retta via a dei bambini, per declamare poesie, cantare canzoni d'amore, per insegnare la giustizia. Può essere anche usata, il grande seduttore per eccellenza usa la parola per sedurre. La prima seduzione è attraverso la capacità di instillare il dubbio che in effetti potrebbe essere qualcosa di diverso da quello che si è. Non pensiamo che la parola non abbia in sé questa duplice valenza di essere un grande scardinatore anche di buone volontà. Grazie Ada, Pino da Bari. Arrivederci. Sì, Nicoletti, Pino. Buongiorno, mi sente? Lei fa il venditore. Sì, purtroppo. Quindi ammette che la figlio di puttanaggine è una delle caratteristiche necessarie per vendere? Allora, sì, ammetto questo e sicuramente noi venditori maschi, ad esempio, scontiamo il fatto di essere maschi, perché in alcune occasioni il venditore donna ha molta più facilità a chiudere. Beh, se l'acquirente è maschio, ma se l'acquirente è donna... No. Mi spieghi questo fatto. È sempre, purtroppo, tra virgolette, un handicap, perché poi tu puoi essere professionale fino a quanto vuoi, ma se per vendere un prodotto entra una bella donna all'interno di un'azienda, il titolare maschio è sicuramente molto più attento. Poi se chiude o non chiude è un altro discorso, ma sicuramente è molto più attento. Il titolare donna... Guardi, a me sono riusciti a vendermi una signora affascinante da una piazza un attrezzo che non ci faccio nulla in cucina solo perché ha detto venga a farti le polpette a casa, quindi lei capisce. È possibile che qualche maschio... Fosse stato un signore coi baffi era ancora lì a venderlo in piazza, è chiaro, sì, lo capisco. E siamo però volevo dirle anche un'altra cosa. Io ho partecipato a molti corsi di vendita dove ti dicono sempre le stesse cose, la postura, l'atteggiamento nei confronti del cliente, ecco, ogni volta erano sempre le stesse cose con parole diverse, con guru diversi, con questi formatori della PNL, la programmazione neurolinguistica, che oramai non ce la faccio più, guarda, ce ne sono uno ad ogni angolo e ognuno ha il suo modo chiaramente di porsi, ha il suo modo didattico di dire le stesse Ma invece cos'è, ascolta, l'esperienza secondo lei? Io sono molto scettico, secondo me queste società di consulenza che insegnano come comportarsi, come che fanno questi corsi esasperati, che portano in montagna e fanno saltare dagli alberi per creare il senso di disprezzo del pericolo, cioè ne ho viste tante, fanno camminare sui carboni ardenti, insomma... Se non cammini sui carboni ardenti non sei nessuno, io non ho camminato sui carboni ardenti perché non me ne frega niente, ma ho venduto sempre uguale. Cioè io quando entro da un cliente capisco entro 10 minuti se il cliente mi sta ascoltando, i primi 10 minuti sono quelli più importanti, se il cliente non mi sta ascoltando perché mi ha dato l'appuntamento solo per cortesia, io lo capisco subito e lì devo giocarmi le carte, se il prodotto lo interessa allora comincia ad alzare gli occhi, se il prodotto non lo interessa io saluto e me ne vado, il contatto è bruciato. Quindi il prodotto deve essere importante, deve essere un prodotto che non ti fa vergognare e quindi puoi tornare da quel cliente per un altro prodotto. Non solo il prodotto, devi essere tu capace di porti, quindi devi essere tu ad avere una capacità comunicativa. Ecco, quindi lei dice che è una questione di sensibilità individuale, di capacità esperienziale, che è difficile, come in parte sono d'accordo anch'io quando dico che la comunicazione non può essere codificata come una scienza, insegnare. I metodi di insegnamento in realtà sono maniere per dare l'illusione che esista un sistema, un segreto, ma il vero segreto lo si sente sulla pelle. Questo è il contratto base di una polizza totale che prevede ogni tipo di infortunio. Sì. Questa è la penna, lei deve venire a casa mia e convincermi a firmare. Dunque... lei è arrivato a casa mia. Oh, che meraviglia! Quadri d'autore, mobili antichi, argenteria. Certo che se qui viene un ladro si becca tutto, ma lei se ne frega perché ha già messo la firmetta qui e l'assicurazione la disattiva. Io ho un perfetto allarme elettronico a prova di ladro. Nessuno può entrare in casa mia. Cade un fulmine sulla casa, ma lei se ne frega perché avendo firmato qua l'assicurazione... Io non ho cascina, ma ho il parafulmine. Cade un mozzicone, si incendia la moquette e brucia tutta la casa, no? Non fumo. Il bambino con la palla rompe un vetro? Non ho figli. Sua moglie no. non ha moglie? No. Non l'ha trovata della sua misura? No. Vabbè, allora sono fregato. Sì, a questo punto è fregato. Vediamo cosa fa. Beh, a questo punto prendo la polizza e qua scrivo che lei non ha voluto assicurarsi. Questo era il povero ragazzo di campagna, Renato Pozzetto, che faceva un test per fare il venditore con un panzone enorme che... naturalmente poi lo boccerà per la sua goffaggine. Giovanna da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è manager di una multinazionale? O prego? Sbaglio? Leggo manager di una multinazionale, Giovanna. Esattamente. Sì. Allora, queste cose un po' da imbonitori mi fanno veramente sorridere. Intanto vorrei rispondere all'intervento che mi ha preceduto, cioè l'essere donna non è un vantaggio, diciamolo chiaramente, sfatiamo assolutamente questo pregiudizio perché veramente non... Posso chiederle di cosa si occupa, qual è il settore di cui si occupa lei, Giovanna? Comunicazione. Quindi lei apparentemente fa di mestiere, insegna tecniche di comunicazione, di vendita, queste cose qua? Assolutamente no, non sono un formatore, io mi occupo di comunicazione, quindi vuol dire corporate communication, quindi ufficio stampa. Ah, ufficio stampa, perfetto. Diceva che allora non è esatto quello che diceva, ma quello era un venditore porta a porta, quindi aveva naturalmente un approccio diverso rispetto a quello che penso sia la sua attività. Assolutamente, però secondo me la regola, come dire, il successo sta nell'empatia che si crea con le persone e questo a prescindere dal sesso. Ci sono venditori maschi che riuscirebbero a vendere veramente delle scatole di fiammiferi vuoti, ci sono venditori che non riescono, quindi cambiano mestiere, ma tutto sta non tanto a queste tecniche che ormai... per la verità sono anche un po' superate. Tutto sta all'empatia che si riesce a creare con le persone. Vero è che se si incontra una persona e si tengono gli occhi bassi, ci si agita troppo con le mani, non si riesce a star fermi e quindi questa cosa tradisce nervosismo, poca trasparenza, soprattutto il non guardare negli occhi, questo è vero, maldispone al rapporto con gli altri, però voglio dire, questa è una cosa che si impara, se vogliamo, non dai corsi ma dall'esperienza e dalla competenza. Perché io non guardo mai le persone quando parlo con loro, mai. Me lo fanno notare spesso, ma non negli occhi, non le guardo proprio in faccia. Sto girato da un'altra parte, ma è vero? Correi non sarebbe un buon venditore, perché sì, guardare pessimo. Negli occhi è una cosa che denota trasparenza, che denota, come dire, fiducia. Quindi questo. Ma la trasparenza le trova che sia un valore, la trasparenza? Io, a me piacciono le cose che vanno scoperte, non lo so, forse perché non mi pongo mai nel rapporto del vendere o comprare qualcosa, ho un tipo di approccio diverso. Secondo me nei rapporti con tutti si cerca di trovare qualcosa, se non li si guarda negli occhi è difficile trovare quello che si cerca. Ma se uno sente l'odore non è la stessa cosa? Come? Se uno sente l'odore di una persona e si sofferma su quello. Anche. Ma infatti la conoscenza secondo me è sempre polisensoriale, per cui deve essere un mix di tutto. Ma guardando una persona ci si accorge di tante cose, dei suoi piccoli tic, il suo modo di muoversi, il suo modo di muovere le mani, della mimica facciale, eccetera. Secondo me sono cose assolutamente importanti che ti raccontano. No, dicevo questo perché siccome tutti coloro che vanno a scuola di queste tecniche guarderanno attentamente tutto, trovo già scontato che il mio interlocutore saprà benissimo controllare ogni sua mimica, quindi preferisco non guardarlo e giocare sulla sua assenza. Comunque grazie. 800 24 00 24, oggi cerchiamo di capire quanti danni si possono fare con le parole, quanti danni, quanto il linguaggio diventa un perfetto strumento di lavoro, uno strumento di seduzione. Oggi vedo che preferite orientarvi sulla seduzione legata al mondo della vendita, al mondo degli affari, al mondo della pubblicità, quindi teniamoci su questo argomento, ma io vorrei parlare anche di seduzione in senso classico, in senso stretto. Intanto vi leggo qualche intervento su Facebook. Barbara parla del team building, le perfette strategie aziendali di motivazione, sono quelle cose che dicevo che vi portano nei percorsi di guerra per motivare i gruppi di lavoro. Poi dietro il bel parlare, dice Gabriella, c'è un bel pensare, ne siamo convinti un po' tutti. Purtroppo il problema è se affrontiamo un parolaio non abbiamo le risposte da dargli, quindi vince lui. Anche quando abbiamo la risposta lui ha comunque la controrisposta. Ecco, il parolaio è un'altra figura simbolica che abbiamo soltanto lambito, colui che comunque ha sempre una risposta pronta. E in questo caso ritorno un po' agli esempi che faceva il nostro primo venditore di tecniche di parola, che dice ripetete l'ultima parola dell'ultima frase del vostro interlocutore in modo che avete sempre una maniera per incalzarlo. Io vorrei fare una svolta virtuosa rispetto a quello che stiamo dicendo, facendo qualche domanda a Anna Maria Testa. Anna Maria Testa, buongiorno. Buongiorno. Io l'ho lasciata in ascolto e lei pazientemente c'è stata tutta la prima parte, volevo che lei acquisisse elementi dai nostri ascoltatori. Così mi sono molto meglio. Divertita, ho anche alcune cose da dire, ma preferisco sentire prima le sue domande. Sì? La presento, dico, lei è esperta di comunicazione e pubblicità, autrice di Farsi Capire, nuova edizione Rizzoli, è un libro che parla del linguaggio nella comunicazione, soprattutto nella pubblicità, quindi può a che fare con i venditori di pentole o con gli imbonitori di piazza. Però sentiamo cosa, intanto i suoi commenti mi interessano rispetto a quello che ha sentito dire nella trasmissione. Il primo punto è che le parole costruiscono mondi, all'inizio del verbo ci dice, ci fa immaginare molte cose, no? Parlando noi possiamo costruire narrazioni che fanno cambiare ciò che c'è nella testa delle persone, questo bisogna saperlo perché succede così, no? La comunicazione funziona con poche regole di base che vanno conosciute, che però non sono i trucchetti che si diceva prima, no? Quello è un linguaggio al silicone. Falso. Quello è un mestiere, è un altro mestiere, vendere trucchetti per parlare, per poter riuscire a sparcare il lunare. Però voglio dire, i primi che si sono occupati delle regole di base del comunicare e del persuadere, perché tutte le volte che noi costruiamo un discorso, una narrazione, trasferiamo un pezzettino dalla nostra visione del mondo e vogliamo che sia accettata, in questo c'è un'intenzione persuasiva, non c'è niente di male, no? Comunque i primi a occuparsene sono stati Cicerone e Aristotele, certo. Non è una roba recente. La PNL di cui si parlava prima ha anche lei dei padri nobili, Bateson alla scuola di Palo Alto, però adesso è ridotta a una serie di trucchetti da prestigiatore della varietà, insomma. e ancora si parlava dell'effetto cosa beve la mucca e il latte. Questo deriva da un'illusione cognitiva che si chiama ancoraggio ed è un fenomeno ben noto, il fatto che siamo dipendenti dalle nostre valutazioni dal contesto. Faccio un esempio semplice e molto conosciuto. Se lei chiede a qualsiasi persona quanti sono gli stati africani e nel frattempo fa girare una ruota casualmente una ruota della fortuna consegnati dei numeri, la valutazione di quanti sono gli stati africani sarà più o meno alta secondo il numero uscito sulla ruota della fortuna. Ovviamente non c'è relazione fra gli stati africani e il numero uscito casualmente, ma comunque fa parte del contesto. Ecco, la nostra mente funziona così e dobbiamo saperlo, e dobbiamo saperlo anche per farla funzionare meglio e per parlare e per parlarci meglio. L'ultima cosa che volevo dire è questa. L'altra parola venuta fuori è stata creatività. Ecco, è una parola che io amo e onoro molto, perché nel concetto di creatività ci sta tutta l'attività positiva e produttiva. Però ammette, signora, umano, che c'è stata una bestiale inflazione di questo termine. Il creativo medio è una persona che ormai a cui non farei nemmeno scrivere gli inviti alla comunione di mio figlio. O sbaglio, forse esagero. Ma voglio dire, ma la creatività è la creatività scientifica, è la creatività artistica, è quella che ha prodotto la Gioconda e il concetto di sì, ma io parlo molto più banalmente. Cosa fai? Faccio il creativo e vede questo signore vestito di nero. Nei paesi anglosassoni non è così, la creatività è una faccenda rispettabile. Sì, ma sì, noi siamo un po' provinciali forse in questo. Ecco, finché non restituiamo rispettabilità all'arte di inventare, creando connessioni nuove e utili, difficilmente questo paese riuscirà a... Quindi mi dà ragione, dico, un vero creativo è colui che produce un'idea, che cammina con le sue gambe, che ha un mercato, se no non è un creativo. Questa è la definizione di Poincaré, della migliore definizione del prodotto di creatività, è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili. Ed è un'attività nobilissima, è quella che ci ha tirato fuori dalle caverne. Non possiamo ridurre la produzione di slogan e di zucchette per vendere, perché sennò neghiamo una parte nobile di noi stessi, no? Ma è veramente un peccato. Sì, forse mi sono spiegato male, signora. Io ce l'ho veramente con quello che... Scusi per questa cosa accurata. Ma... No, ma amo le persone accurate perché mettono passione in quello che dicono e non sono superficiali. Ma si rende conto che oggi, quando la creatività si vende nei mercatini per strada, quando su YouTube possiamo trovare lezioni di creatività e via dicendo, è un termine che si è un po' usurato, perlomeno nella sua più nobile delle accezioni. Cosa fai? Faccio il creativo. Quanto sei creativo? Anche semplicemente perché uno si mette l'orologio a destra invece che a sinistra, o cose del genere. Di questo ragionato molto, il problema mi coinvolge talmente che ho dedicato un sito che si chiama Nuovo e Utile a raccontare questi temi. Posso dire però che i creativi veri non amano girare addosso con questa etichetta addosso e la mettono in discussione proprio perché si è consumata. L'ultima cosa importante, il linguaggio è di per sé, se lo rispettiamo e lo trattiamo bene, un fatto creativo, perché la creatività, lo dice Umberto Eco, è arte del combinare. Il linguaggio, per definizione, è un'attività combinatoria. Se noi riusciamo a combinare parole e pensieri in modo nuovo, che sia utile, riusciamo a trasmettere informazione, quindi a produrre un fatto utile e importante, benefico, no? Quindi è una nobile applicazione del copia e incolla. No, perché dai, no. Praticamente questo ha detto lei, scusi. No, copie, riassemblare cose già esistenti. Allora, avendo a disposizione poche... No, vero, che è un'attività nobile, anche ultimamente importanti libri sulla metafisica di Augias sono stati lambiti da questa nobile attività creativa, di Mancuso, quindi figuriamoci. Anche quando si parla di Dio il copia e incolla ha un senso, quindi figuriamoci banali attività come quelli di vendere prodotti. Sì. Non è quello che stavo dicendo, forse mi sono spiegata male, mi dispiace. Sto dicendo che lei con poche lettere può combinare tutte le parole del vocabolario e con le comunque poche parole del vocabolario, il vocabolario italiano ha circa 150.000, può combinare e ricombinare tutte le narrazioni del mondo. Sentiamo un attimo, scusa, Angelo da Milano deve dirmi una cosa. Angelo. Buongiorno. Lei è un direttore delle vendite, ci riporti sul piano concreto della necessità comunque di tornare a casa con qualche prodotto venduto, se no, ahimè, non si mangia la minestrina. Prego, Angelo. Ho sentito malissimo quello che ha detto la signora, sono in macchina, si sente pianissimo. Ma secondo me state un po', diciamo, mischiando delle cose, perché un discorso è la funzione quella pubblicitaria, è un discorso la comunicazione che utilizza un venditore. Sì, ma noi stiamo usando le varie declinazioni dell'uso del linguaggio. Anna Maria Testa parla del suo mestiere, lei parli del suo, ognuno cerchiamo di dare degli elementi. È sempre la maniera di usare il linguaggio in maniera convincente, sia il pubblicitario che il venditore deve esprimersi in maniera convincente. Ma sicuramente, ma non solo, ma una cosa importante è che bisogna avere la predisposizione. Io ho avuto tante persone sotto di me, ho avuto a che fare con tanti ragazzi e la predisposizione è fondamentale. Dopodiché c'è la preparazione, che quella può aiutare a migliorare, ma se uno non è capace di comunicare, non è capace di esprimersi, tutto quello che può imparare non riuscirà mai a metterlo a frutto come si deve. Beh, esistono maniere parallele comunque, perché grazie al successo conosco persone incapaci di ogni comunicativa, ma hanno una sorta di subdola capacità comunque di aggiramento alle spalle dei problemi, delle persone, delle situazioni, che comunque riescono ad avere il successo. Quindi non soltanto nella creatività e nell'eloquio e nella comunicazione il successo, ma noi di quello stiamo parlando. Melog 2.0. Ma signora, non c'è niente da comprare, la nostra dimostrazione è assolutamente gratuita e le offre l'opportunità di verificare la qualità dell'acqua corrente di casa sua. Ma che c'entra l'acqua? C'entra, signora, perché lei forse non sa che il nuovo Multicol, oltre a tritare, frullare, grattugiare, smilzare, centrifugare, mescolare, mantecare e cuocere, sterilizza l'acqua domestica con un apposito collettore che si può comodamente applicare al rubinetto di cucina. La signora di Nassasso ci ha detto che lei ha due bellissimi bambini. Quanti anni hanno, signora? Sì, ne tengo uno di 12 e l'altro di 8. Allora lei capisce perfettamente che cucina, lavare i piatti e le posate. Perché voi siete delle persone speciali e fate un lavoro speciale. E allora forza ragazze, diciamo buongiorno all'opportunità di questa nuova splendida giornata. Questo è uno spezzone del film di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, che è tratto dal romanzo di Michela Murgio, Il mondo deve sapere. Che la Murgia ha anche scritto il film, racconta la vita di un call center in cui l'elemento essenziale era sapere a parole turlupinare le persone in una brevissima telefonata, in cui bisognava acquisire più elementi possibili della vita di queste persone e cercare di convincerle a ricevere in casa un venditore che avrebbe fatto una prova straordinaria del loro straordinario prodotto. Nel libro della Murgia è un aspirapolvere, qui in questo caso è un attrezzo per fare l'acqua potabile, cose del genere, sempre un marchingegno di quelli che si vendono in casa. Ma qui è interessante capire che la protagonista riesce a acquisire una leadership rispetto alle altre venditrici perché mette insieme alcune tecniche. Oltre alle tecniche classiche che gli hanno insegnato nel corso di incalzare la persona, di chiedere domande personali, lei andava in internet e attraverso le mappe Google guardava il quartiere dove abitava la signora mentre parlava al telefono, citava alcune vie, alcune scuole, alcuni negozi, cercando dei punti di contatto, creando degli elementi di affabilità, di comunanza, come il seduttore che a un certo punto riesce a illudere la sua vittima di avere una visione comune della vita. Pensi, la pensi come me, la vedi come me, vedi il mondo come me, quindi siamo della stessa pasta e quindi posso seguirti e quindi posso essere sedotto. Enzo da Roma, buongiorno. Pronto? Enzo? Sì. Sì, no, da Como. Va bene, comunque. Ah, da Como? Ah, scusi, ho letto male. 600 gradi di differenza, però uguale. Sento, vabbè, tanto la voce si sente lo stesso. Certo, certo. Però è importante che sia di Como, perché lei fa il venditore. Cosa vende? No, io ho fatto per tanti anni il venditore, il rappresentante, ho venduto di tutto, dalle enciclopedie porta a porta, prodotti alimentari, a detersivi, a di tutto. E una cosa che ho imparato, è una vecchia regola, magari l'avevamo già detto in trasmissione, essere un bravo venditore è vendere un frigorifero ad un eschimese, si diceva. Ma quello che ho imparato è che in effetti tu non vendi niente, cioè nel senso tu non vendi l'articolo, ma vendi te stesso, vendi la tua persona, la tua immagine. Se sei bravo a vendere la tua persona, la tua immagine, con appunto con la professionalità, saper parlare, saper capire soprattutto chi hai davanti, perché non tutte le persone sono uguali, per cui in base alla persona che hai davanti devi riuscire a capire in quale canale ti devi mettere per poter riuscire ad arrivare a quel punto, per svegliare nella persona l'interesse giusto verso l'articolo, ma tutto questo lo fai certamente con l'esperienza, con... e soprattutto con l'amore verso questo lavoro, perché nel vendere ci vuole tanto amore, diciamo, nel vendere, non è come fare l'idraulico, il muratore, il pizzaiolo, il cuocolo. Ma ci sono delle tecniche, mi scusi, ci sono delle tecniche che possono essere codificate in un libro, in un corso, insegnate nei banchi di scuola? No, assolutamente. Io ho fatto anche dei four best in management, dove ci facevano dei lavaggi di cervello, dove ci inculcavano tante, mi scusi il termine, stronzate che poi non servivano a niente, perché quando uno va, ad esempio io mi trovavo ad andare a vendere libri e enciclopedie nei paesini della Calabria, perché io chiamo da Como, ma sono calabrese, sono di Crotone. Ma questa è un'attività che si faceva negli anni 70, Massimo, no? Sì, no, ma io ad esempio mi trovavo davanti della gente che arrivavo lì con l'enciclopedia, cioè cosa devo fare con l'enciclopedia? Ecco lì. E dovevi svegliare l'interesse in quella persona e fargli capire che tu questo libro lo devi avere, questi cinque libri lo devi avere, perché è fondamentale per te averlo. Quindi riuscire a svegliare questo interesse nella persona non è una cosa che lo studi sul libro, lo studi a scuola, è una cosa che devi avere dentro, capire chi hai davanti, studiare la persona, sì, che hai davanti. Bisogna anche avere dentro, guardi, non voglio solamente giudicare, fare il moralista, sennò altrimenti si fermerebbe il mondo, ma una dose esasperata di cinismo, perché vendere a un povero bracciante calabrese un'enciclopedia significa mors tua vita mea, chiaramente, ma dargli qualcosa di cui non ci farà solamente nulla. Chiaramente è attinente alla sua famiglia, ai figli che andavano a scuola, ma anche attinente al suo lavoro, perché no, ci sono delle enciclopedie che parla di natura, di agricoltura, di cose. Quindi lei era in parte convinto che faceva il bene di questa persona, non voleva dargli un pacco. Se tu vai da un bracciante agricolo, giusto come dice lei, e gli vendi un'enciclopedia d'inglese, è chiaro che fai del... non fai certamente un'opera buona, però se appunto riuscire a suscitare l'interesse per qualcosa, perché questa persona sicuramente avrà interesse per qualcosa, sicuramente, quindi ecco perché si dice che si vende la persona e non tanto l'articolo che vendi, perché puoi avere anche il miglior articolo del mondo, ma se non sei bravo a vendere, se non sei bravo a svegliare l'interesse in quella persona... Grazie Ezio. Sentiamo Rosario, un suo collega, Rosario da Napoli. Rosario. Buongiorno. Rosario, mi sì. Mi sentite? Sì, cosa deve dire lei invece rispetto a quello che diceva allora, il suo collega? Allora, qui si fa molta mistificazione su ciò che è la comunicazione. E molto spesso qualcuno la vuole utilizzare per fare cose che non vanno fatte. Ma noi, la comunicazione in sé è una mistificazione, perché sennò non ci sarebbe bisogno di comunicare. No, non è una mistificazione. La comunicazione è trasferire un messaggio da uno ad un altro, facendo in modo che l'altro lo possa capire. Poi ci sono delle tecniche che facilitano la comunicazione. Scusi se insisto, ma ogni mediatore compie una salutare mistificazione sul messaggio, altrimenti il messaggio arriverebbe automaticamente come un fulmine dal cielo. Scusi, se noi dobbiamo comunicare qualcosa. Allora, una persona compra ciò che vuole comprare, lei non può vendere qualcosa a qualcuno che non la vuole. Si cerca semplicemente di scoprire che cosa interessa alla persona, se le interessa. È chiaro che ci sono alcuni che cercano di aggirare l'ostacolo con delle tecniche manipolatorie, sono quelle che purtroppo discreditano il nostro lavoro. La realtà non è così. Io sono al servizio dell'altro, attraverso la comunicazione cerco di enfatizzare nell'altro se ha un bisogno reale o meno, perché se non ce l'ha, è inutile che insisto. No, il buon venditore non è quello che vende il frigorifero agli eschimisi. Il buon venditore è quello che acquisisce un cliente. Come diceva quella persona, noi vendiamo noi stessi. Ma vendere noi stessi significa creare una cosiddetta referenza attiva totale. La persona, quando ha bisogno di qualcosa, sa che può chiamarmi, perché sa che io sono uno che lo rispetta. Mi sembra che... Sì, ho capito. Comunicazione per no, è chiaro il suo punto di vista. Chiaramente sono situazioni diverse. Lei probabilmente ha un luogo di vendita statico e ci tiene a crearsi una clientela locale, stanziale, che torni nella sua attività. L'altro signore che gira il mondo, gira l'Italia, una volta appiccicata l'enciclopedia, lui se ne va, e quindi chi ha dato, chi ha avuto, ha avuto. Beh, l'argomento mi sembra interessante. Non è detto che non possiamo continuare domani, ma su un altro piano. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Email melog@radio24.it.